Commissario Montalbano. L'odore della notte di Andrea Camilleri. Sceneggiatura in 10 puntate di Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Regia di Alberto Sironi. Terza puntata. Ma com'è? Andava riflettendo Montalbano che da quando la buon'arma del geometra Garzullo era ciasuto revolbaro alla mano nell'agenzia della Remida, com'è che finiva sempre con l'imbattersi in qualcosa che arreguardava alla scitta o alla larga lo scomparso ragionier Gargano? Meno male che il notaio non aveva pensato neppure per un attimo a investire con lui il patrimonio di François. Mentre il commissario stava a pensare a questo succedersi di coincidenze, già sì, Fazio. Il dottor Augello non c'è? No, commissario, oggi non c'è. Ah, non c'è tutto il giorno? No, ma manco domani, manco dopodomani. E perché? Ma come perché, commissario? Se mi scordò. Ha iniziato la licenza matrimoniale, si deve sposare con Beatrice. Ah, già. Quando si marita? Madonna santa, ma come quando si marita? Fra 5 giorni. E non se ne dimentichi che lei ci deve fare da testimonio. Ma certo che me lo ricordo, Fazio. Chi è quello? No, quello è un signore che è venuto a fare una denuncia per atti di vandalismo in una villetta che sta ristrutturando. Quando è successo? Ieri. Come si chiama? Giacomo Pellegrino. Come hai detto che si chiama? Giacomo Pellegrino. Ci devo parlare, ha già firmato la denuncia? No, me la faccio firmare adesso. Allora, signor Pellegrino, se ha letto tutto, può firmare qui, sotto la mia firma, mettere qua. Qui. Buongiorno, il commissario Montalbano sono. Buongiorno, signor commissario. Molto lieto. Vedo che qui non ha messo il numero di telefono. No. Mettiamo, là, non si sa mai, può essere sempre utile. 0970. Sì. 210302. Ah, vedo che lei non è defecata. No, non sono defecata, sono di Monterreale. Ah, ma si sta facendo ristrutturare una villetta sul lungomare di Marinella. No, no, la villetta non è mia, è di mio nipote. Mio nipote porta lo stesso nome mio. Ah, ma è lo stesso Giacomo Pellegrino che è impiegato alla Remida? Sì, signore, lui. Ho capito. E come mai non è venuto lui a fare la denuncia, ma è venuto lei? Perché veda, signor commissario, le cose sono andate così. Una mesata fa, il giorno avanti che doveva arrivare qua quel gran cornuto del ragioniere Gargano, e io me lo ricordo preciso, signor commissario, era il 31 di agosto. Signor Pellegrino, non mi dica che il ragioniere Gargano ha truffato anche lei. Sì, signore, tutti quelli che avevo. E non mi ci facesse pensare, signor commissario, se no il sangue agli occhi mi sale. Perciò, come ci dicevo, il 31 di agosto, verso le 9 del mattino, si è presentato da me a Montereale mio nipote, dicendomi che ci aveva telefonato il Gargano, che gli aveva ordinato che doveva partire per la Germania per un certo affare. Mio nipote aveva l'aereo che partiva da Palermo alle 4 del dopo pranzo. E così mi lasciò detto che doveva stare circa una mesata fuori, che doveva badare io alla sua villa. Ma scusi, commissario, se glielo chiedo, ma mi spiegasse una cosa. Dimmi. Lei come faceva a sapere che Pellegrino aveva una villetta a Marinella? Io non ce lo dissi. Me la leva questa curiosità? No. So anche che gli hanno sfasciato la staccionata e gli hanno rotto i vetri, è così. Signore. Oh, benissimo, adesso che pensi? Che parlo con le ciaule, che ho la palla di vetro, che faccio magarie? Non si, commissario, ma non si arrabbiasse. No, ma arrabbio sì. Ci sono passato davanti ieri mattina. Volevo sapere come stava l'olivo saraceno. Ah, e l'ha trovato buono? Non c'è più. L'hanno abbattuto per fare posto alla villetta di quello stronzo e cornuto di Giacomo Pellegrino. Ah, capisco. No, che significa capisco? Che hai capito, Fazio? Niente. Ecco, bravo, niente. Senti, visto che Giacomo Pellegrino se ne sta in Germania a scialarsi, ce l'abbiamo l'indirizzo dell'altra impiegata, come si chiama? Michela Manganaro? Sì, commissario. L'ho scritto qua. Ecco. Grazie. La signorina Michela Manganaro abitava con i genitori in una casa popolare di 10 piani dalle parti del Camposanto. Montalbano preferì non avvertire del suo arrivo né telefonando e manco citofonando. Signora, mi chiamo Montalbano, sono un commissario di pubblica sicurezza. Buongiorno. Commissario, sicuri siamo? Che io sia un commissario sono sicuro. E che vuole da noi? Vorrei parlare con Michela Manganaro, è in casa? Sì, è corcata, riposa. Aspettasse un momento che chiamo a mio marito. Vieni, vieni qua, caccia uno, dici di essere commissario. Ci parlassi più forte che è sordo. Oye! Mi chiamo Montalbano, sono un commissario di polizia. Commissario, devo parlare più forte. E Manganaro è sordo, non ci sente. Ha capito? Polizia! Che boh! Che capitano? Che è successo? Polizia! Ehi! La porta dei Manganaro si riaprì lentissimamente e apparse un pappagallo. O almeno questa fu la prima impressione che il commissario ebbe. Naso lunghissimo e giallo, pomelli viola, occhi grandi e neri, quattro peli rossi arruffati sul cranio, camicia verde squillante. Ghiacciosissimo! Grazie! Ma è che se facessi di cazzo vuole? Grandissimi curriloti! Già sì. Facciamo piano che mia figlia dorme! Su un trespolo ci stava il fratello gemello del signor Manganaro, che aveva almeno l'onestà di mantenersi uccello e di non spacciarsi per uomo. Io lo so perché è venuto a trovare mia figlia. Prego, si accomodi. Grazie. Per via di quel grandissimo corrudo del ragioniere Gargano. Sì, ma anche lei è vittima della truffa. Chi è? A Michela l'avvertì, si sta susendo, a momenti viene. Grazie mille! Lei giudica Filippo Manganaro così fissa che se la serve per pigliare dallo spondapiede preparato dal signor Gargano. Ma io non volevo che nemmeno mia figlia andasse a lavorare per conto di quel ladro e disonesto. Ma perché? Lei a Gargano lo conosceva già da prima. No, non ce n'era bisogno, perché tutti quelli che si occupano di denaro non possono che essere ciuffatori. Lei ha mai sentito parlare di un libro che si chiama Il Capitale di Carlo Marx? Qua e là! Ma perché lei è comunista? Comunista? Comunista! Comunista! Comunista! Attacca, Peppi! Non cambiamo ideale, nostro figlio! La cantava proprio bene l'internazionale, il pappagallo vero. Montalbano stava per complimentarsi con l'istruttore quando sulla porta apparse Michela. Eccomi. A vederla, Montalbano s'ammò. A sua disposizione. Molto lieto, il commissario Montalbano sono. Michela, piacere. Mi dispiace averla fatta alzare. Non si preoccupi. Sono venuto a farle alcune domande sull'agenzia Remita dove lei lavorava e sul ragionier Gargano. Faccia pure, però l'ha aperto che sono stata interrogata da uno del suo commissariato. Il dottore Augello, mi pare. E c'è stata interrogata? Oh, sì. È stato tutto verbalizzato? Certo. Ma che strano. E perché il dottore Augello non mi ha detto niente? Ma lo chiedo a lui. Al dottore Augello, che oltre ad essere un vanesio, in questi giorni c'ha la testa persa. Perché si deve maritare. Può essere. Ho capito. Allora, detto questo, io tolgo il disturbo. Di nuovo, arrivederci. Lascia, lo accompagno io. Di nuovo. Piacere di averla conosciuta, commissario. La picciotta, isando gli occhi viola, disse chiaramente al commissario, senza usare le parole, di aspettarla sotto. Aspettò sotto casa una mezz'orata, il tempo indispensabile perché Michela s'alleffasse a dovere. Montalbano la vide comparire sul portone e tagliarsi torno torno. La picciotta velocissima ciasì, chiuse e disse: dove ci mettiamo a parlare? Vuoi che andiamo in commissariato? Se incontro quello stronzo di Ugello? Poi i commissariati non mi piacciono. Beh, allora andiamo in un bar. Scherzo. La gente ti sparla troppo di me, sa? Beh, che con lei non c'è pericolo. E perché con me non c'è pericolo, ma scusa? Che potrebbe essere mio padre, no? Insomma, dove andiamo? Lei dove abita? A casa mia c'è gente. Maritato? No. Insomma, se decide. Piglia prima a sinistra. Durante il breve dialogo, la picciotta era riuscita a mettere nella voce tutto il sapore del proibito. Quella picciotta era pericolosa, non solamente bella, ma macare carogna. Il commissario Montalbano, l'odore della notte, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Cesare Bocci, Claudia Fichera, Daniela Marazzita, Peppino Mazzotta, Angelo Russo. Musiche originali di Franco Piersanti. L'odore della notte di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio, posta elettronica, sceneggiato, chiocciolarai.it.